fretta in furia. Scaletta preparata in furia, meno in fretta. Trasmissione non preparata affatto. Frugale pasto consumato in fretta. Atmosfera natalizia, ui! Quanto ci dispiace. Ma siccome sono tanti anni che ripiombiamo inevitabilmente qui per San Lorenzo, per Roma, per la metropoli, per la giungla d'asfalto, come la chiamavamo, insomma, in qualche misura siamo costretti, o comunque vogliamo venire qui anche in questo periodo di grande ipocrisia e grande business. Forse un po' sottotono pure quest'anno, boh, sì, non saprei. Mi piacquero molto quelle feste natalizie all'indomani dell'esplosione delle crisi borsistiche dei subprime, fine anni 10 del 2000, in cui più che altro per così timore o perché proprio per realtà non c'erano soldi che giravano, il Natale era molto sottotono, poche luci. Vabbè, la detestiamo questa atmosfera, però c'è tanta gente in giro qui per San Lollo. Allora, Radio Onda Rossa, 22:59 minuti primi. 87.9 della banda romana e laziale. www.ondarossa.info, il sito, la radio che si sostiene grazie al vostro contributo. Contributo in tutti i sensi, in tutti i termini. Di idee, di supporto, di contributo, di tutto quello che volete, ma anche di soldi che ci mandate, che ci date, che ci portate. Vi acquistate la scarceranda, che eccetera eccetera eccetera, che venite ai concerti, che prendete le cose dal banchetto, le pubblicazioni della radio, tutto, ci aiutate da tanti anni, continuate a farlo. Sul sito www.ondarossa.info, che vi ho testé citato, trovate. Sottoscrivi, cliccateci dentro, c'è una paginetta intera dove ci stanno tutte le modalità per poter sostenere questa emittente. 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185, via dei Volsci 56, Roma San Lollo. Dicevamo, non solo questo è il vostro contributo, anche le vostre comunicazioni sono un contributo per la radio, possono arrivare tramite i social media. Mamma mia, che ho detto, che abbiamo detto, altra cosa, come l'atmosfera natalizia di qua, almeno in questa fascia oraria, non entrano social media, vero Banà? Orgogliosamente social media. Ma non è che dici c'hai un odio, una cosa, sì vabbè quello, no, ma proprio non gli si fa, stai appresso, sempre di fretta, sempre non gli si fa. Quindi invece c'è un media con cui poter arrivare, diciamo, il contributo alla radio. Onda Rossa, chiocciolondarossa.info, la casella di posta elettronica della radio. almeno a questo. Ci siamo arrivati, come anche 25 o'clock 25 scritta al numero 25 o'clock @ondarossa.info per i vostri insulti o le vostre proposte di suoni che ci potete mandare su questa mail. Altro numero importantissimo, illuminate di rosso la redazione della radio più rossa che c'è. 06491750, recapito della radio nel 1977. E quindi noi facciamo un omaggio a dei compagni, a dei musicisti che ci hanno addirittura offerto un triplo concerto, un doppio triplo concerto, uno nel 2018, uno nel 2017. Questo è Crushed Bones al Mairata. .23:03 e quindi al Mairata, anche perché non era partita proprio al sincrono perfetto. Da capo, Crushed Bones al Mairata, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. 3 e 10 minuti primi, quindi siamo passati dagli Almeirata all'ultima uscita 2018, veramente un disco importante. Al solito non tanto nella sperimentazione, nella ricerca particolare di suoni e sonorità nuove, ma quanto nelle esecuzioni. Brand Bjork, ovvero sia il pischello dei Caius, nel 90 entrò a far parte dei Caius alla batteria, non c'aveva manco 17 anni. Con questo progetto, che non è un vero e proprio progetto solista, benché porti il suo nome, perché comunque si avvale della partecipazione di Sean Weller alle voci, alla voce solista, e Bubba Duperi alla chitarra, al basso, alle percussioni, come anche lui suona la batteria, che è il suo strumento con cui aveva cominciato, il basso, la chitarra e anche la voce. Abbiamo ascoltato 1968, ecco, vedete, una cosa dovevo dire correttamente, perché c'era il passaggio eccetera eccetera, l'ho sbagliata. 1968, Brand Bjork, e quindi sonorità come potete ascoltare, che ricordano senz'altro i Caius, lo Stoner, ma che attingono a piene mani anche al patrimonio degli anni, della fine anni 60, inizio anni 70, di quel rock selvaggio. Rock selvaggio che vede proprio l'uscita nel 1968, praticamente, del primo disco degli Stooges, Scoperti. Da Danny Files e prodotti da quel John Cale di Velvet Underground. Scoperti perché invitati a un concerto degli Stooges dagli MC5, per cui John Sinclair, che produceva gli MC5, dice: dice a Danny Files, vieni a sentire questa roba qua, questi ragazzetti. Lui non era nemmeno colui che dentro la Elektra si occupava di scoperte di talent scout, insomma, di scoperta di nuovi, di nuove band. Si occupava invece di pubblicizzare, di promuovere quelle già affermate, come in quel momento erano gli MC5. Comunque, MC5 metti al contratto per $20,000, Stooges messi a contratto per $5,000 dopo quella serata. Folgorante. Era il 1968 e la prima traccia di Stooges la conoscete tutti e tutte. Si chiama 1969. È apposta. Avevo sbagliato, perché era un anno prima, un anno dopo, dai. Eccola qua, Stooges. Okay, walk across the USA. Yeah. Pink Flag, Wire, 1977 si sentiva, perché un po' questa è almeno il filo di questo principio di 25 O'Clock. Acerbi, selvatici. Come mai in un lasso di tempo così piccolo vengono prodotte tante cose contemporaneamente, praticamente con un'esplosione vera e propria di suoni che rompono? Questa è la Gran Bretagna. O forse anche no, il Galles. E secondo me Colin cantava con il chewing gum, la gomma da masticare in bocca. Pure studio, che sembra proprio che ce l'ha. Sentite la voce. Secondo me c'ha la gomma da masticare. Il mio corpo si rimessa, il mio corpo. tutta questa sicurezza ci porta a violenza. Quale altra frase, quale altro spunto per parlare di quelle che saranno le iniziative di questo fine anno? Sì, perché domenica 30 dicembre presidio contro il CPR di Roma. Nelle ultime settimane nel CPR una donna è morta senza soccorsi e si vive senza acqua calda, al freddo, e di freddo ce n'è. Stasera la birra stava in macchina, perché a San Lorenzo, a proposito di sicurezza, non si vendono birre. Bisogna portarsele da casa. Eh sì. Però, ripassando alle cose serie, si vive senza acqua calda, al freddo, fra continui soprusi e deportazioni, una normalità fatta di violenza e privazione della libertà. Mentre nei ghetti, come nel mare, si continua a morire. La scelta è fra lottare o rimanere ancora indifferenti. E quindi il 30 dicembre, domenica, dalle 15.30, a stazione Fiera di Roma, per andare sotto il CPR contro Salvini e la sua propaganda, contro il business dell'accoglienza. Avete sentito anche lo spot che gira in radio? E c'è anche un interessante piramide di solidarietà che aiuta le migranti a scavalcare quelle mura. E poi contro un'altra istituzione, quella del carcere. Ma il retropensiero che attiene a CPR e carcere è il medesimo. Mi sembri più scura, sarà questa arzura, mi fa... 31 dicembre, lunedì, odio il carcere, salutiamo la fine dell'anno, salutiamo la fine delle galere. Presidio al carcere di Re Bibbia dalle ore 10 a via Maglietti, angola via Barcolo Luongo. Lenticchiata e banchetti Reading Cassa Dritta. E la locandina recita una frase tratta dal pensiero di Angela Davis. Questa è la funzione ideologica della prigione, ci libera dalla responsabilità di farci carico dei problemi per cui le persone vengono incarcerate, nascoste. Nasconde i problemi della società prodotti dalla povertà, dal razzismo e dalla violenza di genere e dallo sfruttamento. Mettiamo fine alle prigioni e alla società di cui che ne ha bisogno. Radio Onda Rossa scarceranda. Matricola 1312. 1978, secondo disco per Talking Heads. Con la produzione in questo caso di Brian Eno. Okay. E anche la sua partecipazione. Anche la sua partecipazione accanto a David Byrne e soci nel suonare proprio, nel toccare gli strumenti. In questo lavoro del 1978, dicevamo, More Songs About Building and Food. Anche qui siamo su terreni ascoltati e ripetuti centinaia, migliaia di volte qua da queste frequenze. E devo dire che negli anni 80 era una delle cose che più si ascoltava proprio le famigliole dell'epoca, ricordo appunto i Talking Heads. Mandati un po' da tutte le parti, anche nelle radio commerciali, perché assolutamente avevano un suono accattivante e magari provenissero da dalle università, fossero insomma dei giovanotti un poco più colti, più eruditi della media delle band dell'epoca, dell'esplosione punk vera e propria. Ecco, stiamo parllando, ma nel frattempo vedi, ho detto esplosione punk e si è sentito un botto da paura, però niente per ora rispetto a quanto qualche decina d'anni fa si ascoltava qui per San Lorenzo intorno al Capodanno. Già a inizio dicembre c'era un bello smercio di botti clandestini, illegali, un'usanza che non è che abbiamo mai così tanto amato. Ci siamo cimentati da Pischelli, però insomma i botti di Capodanno, altro adagio di questo periodo del Natale che appunto detestiamo, nella fattispecie più del Capodanno. 23:38 minuti primi, il tempo scorre a Radio Onda Rossa, rimaniamo negli States, rimaniamo in quel periodo lì, rimaniamo su quelli che erano le band più da una parte prolifiche e dall'altra parte che ricercavano un suono che poi sarà rimasto e rimarrà. Negli anni a venire loro altri precursori per Eubo, e questa è la loro Modern Dance. quindi a Radio Ondarossa 25 o'clock, ma ci siamo dimenticati, e è una cosa che radiofonicamente non si fa mai, cioè quella di andare a ripescare quello che la traccia che abbiamo mandato 4 tracce fa, e specificare meglio. Di solito si lascia correre, ma è considerato un errore, diciamo, dal punto di vista radiofonico. Ma qui andiamo orgogliosi dei nostri errori. E quindi ci siamo dimenticati di citare chi è l'autore della traccia di prima, di Insicurezza. Un lavoro che abbiamo presentato qua negli studi della radio a 25 o'clock. Teneme qui a Fuggio, dalla zona di Capoleuca, il tacco dello stivale. Però era un'informazione dovuta, anche perché poi ci state attentissimi e ci mandate le mail, ci mandate le richieste. Che cos'è che avevi mandato più o meno a quell'ora? E incredibilmente la radio è in grado di rispondere sempre. Comunque vi ricordiamo il telefono 0649 1750, ci potete chiamare tranquillamente e chiedere anche in diretta: oh, ma che stai a mannà? Non ci può fare che piacere. Allora, Talking Heads, Pere Ubu, quindi punk statunitense. Quello iniziato nel 74, 75, 73 alcuni addirittura, o addirittura come anch'esso un titolo di Teneme qui a Fuggio, il loro lavoro, addirittura proprio dalla traccia che abbiamo ascoltato inizialmente degli Stooges, vero proto punk, MC5, Stooges da Chicago. Ti ho detto? No, è una confusione, da Detroit. Chicago era perché gli MC5 e gli Stooges anche devono suonare la convention del Partito Democratico di Chicago. Quindi si sono accavallate le idee, ovviamente, da Detroit. E quindi dopo questa sequenza non potevano mancare i Divo. Good Feeling, Divo, a Radio Ondarossa, 25 o'clock. prima ancora dell'hardcore, Divo. Stop your meme. Da 30 secondi o qualcosa di più. Zetan Canon. Voglio avere il mio stadio per venire lì da te. Questi ovviamente Light the Bob e questa è Zetan Canon, la band version, perché poi c'è pure una versione acustica che forse mandiamo più spesso di questa qua. Comunque, per abbattere i muri dei CIE e delle galere, scarcerando l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, abbiamo esaurito proprio ieri il primo ciclo di presentazioni, ne seguiranno altre, ve lo faremo sapere. Per l'intanto vi diamo la lista dei posti dove è possibile acquistare la scarcerata. Ovviamente Radio Onda Rossa qui a San Lorenzo, Forte Prenestino, Libreria Giuffrà, Libreria Libreria Tomo, Assaggi di Scienza qui a San Lorenzo, Libreria Centro di Documentazione Anarchica Anomalia, Libreria Lo Iedi al Pigneto, Tuba ancora al Pigneto, Il Mattone a Centocelle, al Centro Sociale Ipo di Marino. Non perdo il mare. Non sappiamo, ma da quello che risulta sul sito della radio sembrerebbe che per ora non ci sia a Torino né a Radio Blackout, né all'infoshop Senza Pazienza. Comunque informatevi se vi trovate da quelle parti. A Radio Blackout, stessa cosa a Brescia, non ci risulta che l'abbiano ancora. Magari gliela faremo avere. Invece a Bologna, all'info shock XM24, e poi al circolo Berneri in Toscana, a Firenze, al centro sociale Next Emerson a Pisa, alla libreria tra le righe, e poi al Neuroz di Pisa, a Lucca alla Biblioteca Popolare San Concordio, a Viareggio al centro sociale occupato e gestito SARS, a Massa, a Massa al CSA centro Casa Rossa occupata, a Napoli alla mensa occupata. Insomma, questi sono un po' i posti dove potete trovare la scarceranda. Comunque continueremo nelle prossime settimane il giro e gli invii nei vari posti della penisola. Ragazzi, 23:57, ora un po'. Un po' di suoni sghembi. Di seguito iniziamo con Throbbing Gristle, la band che negli anni 70 inventò l'industrial, e andiamo quindi un po' nel territorio proprio di prove elettriche di trasmissione. Eccoci qua. We'll be right back. Radio Onda Rossa 25 o'clock, 11 minuti, 12 minuti dopo la mezzanotte in questo momento. E quindi dagli anni 80 dei Tropic Crystal, esibizione dal vivo di Looking for the Auto. Quindi passiamo il secolo e andiamo negli Stati Uniti con Chris Carter's Chemistry Less, con Animal Collective Airpipe to a New Transmission. E quindi dicevamo, andiamo negli Stati Uniti, un'uscita del 2018, come questa uscita del 2018 è una raccolta di poco più di sample per Chris Carter's, uno dei componenti dei Tropic Crystal. Questo progetto si chiama Chris Carter's Chemistry Lesson, da cui abbiamo ascoltato Noise Floor. Spostiamo ancora, ce ne andiamo, ritorniamo al di là dell'Atlantico, andiamo in Canada. Li abbiamo seguiti fin dagli inizi degli anni 90. Un'altra di quelle band che hanno fatto storia, di quei collettivi più che band. Anche se cambiano così la sintassi del nome, gli elementi ruotano e fanno a far parte di altri collettivi che girano intorno alla Constellation. Avrete capito che stiamo parlando di Godspeed You Black Emperor. E di quell'entourage che è la Constellation Record di Montreal, appunto. Ancora un'uscita recente 2018 per loro. Un disco che si chiama appunto Godspeed You Black Emperor Plays Luciferan Towers. 14 minuti, la loro seconda traccia che andremo a ascoltare per intero. Bosses Hang. 17 minuti dopo la mezzanotte, insomma è un periodo così che di festa. Festa che detestiamo, però di festa, e le feste comunque rilassare i tempi di lavoro, lo scemare, insomma è una cosa che ci piace. Com'era un tempo che dicevamo? Lasciamo fuori i ritmi del consumo e della produzione. Questo ci può stare, perciò, dato che lo 0649175050 si illumina da capo. Good speed you, Black Emperor, da capo. Bossis Hang, il gancio dei capi. Thank you. esplosioni di luci, colori, fiamme, oggetti di natura, esseri viventi che si sprigionano in questi suoni senza tempo. Dobbiamo dire che anche in questo ultimo lavoro con Speed U, Black Emperor, non lasciano ombra ai dubbi un altro lavoro di quattro lunghe tracce da ascoltare per lasciarsi trasportare nella magia che ogni volta sanno creare. Non siamo mai riusciti a vederli live, siamo invece riusciti a vedere Silver Mount Zion, e devo dire che anche dal vivo, al di là della loro che è una band di quelle sovrapposte poi a Goodspeed You, Black Emperor, dicevamo che malgrado la notorietà e l'oggetto di culto che sono diventati, comunque non hanno mai perso, conservano gelosamente, come dire, non rinunciano, ne fanno anche il centro del loro rapporto con la musica e con chi li ascolta. Non rinunciano affatto a così una vocazione che potrebbe assomigliare molto all'atmosfera che si crea nei nostri centri sociali, nei momenti migliori che abbiamo visti al banchetto, a fine concerto, a chiacchierare con la gente, a vendere dischi. E anche il loro desiderio comunque di mantenere i prezzi dei concerti a cui partecipano, che, di cui si fanno promotori i prezzi piuttosto bassi. Quindi noi non ci risentiremo mercoledì prossimo, che è il 26 di dicembre, ma la radio il 25 di dicembre, comunque dal primo pomeriggio in avanti, non lasceremo i microfoni spenti, non lasceremo il mixer con l'automatica. Non lasceremo i piatti e i lettori di CD e tutte le attrezzature mute. Per ora vi diciamo che il 25 dicembre, Dancehall di Natale, con Babbo Natale che dice: sì, siamo tutti alla strada per il Natale, ok, porta gli elfi, Cold Damp Crew, Soul Roots, Villa Ada Posse. Quindi un Natale ragamaffino, riffa antipro, free Garbatella, centro sociale occupato e autogestito alla strada via Francesco Passino 24 a Garbanzia. Ci troviamo qui davanti alla locandina, è un po' sparpagliata su tutti i tavoli della radio. Sabato 5 gennaio, sempre alla strada, Befana Night, Baracca Sound, Fit Madhouse Band e Live in Concert, Pre-After Dancehall by Yuk, centro sociale occupato, la strada. E magari andando, venendo, insomma, accendete Radio Onda Rossa pure a Natale, anzi non la spegnete proprio. Pure il solstizio d'inverno del calendario gregoriano. 38 minuti dopo la mezzanotte andiamo ancora avanti per un pochino, poco pochino, c'era ancora roba da mandare nella valigetta dei dischi, ma la tronchiamo qua, o quasi, perché abbiamo detto qualcosina ancora mandiamo perché ci azzecca. Bells and Circles, loro sono Underworld e la voce è quella di Iggy Pop. Ancora un'uscita del 2018 da non perdere. Send it to Cuba. Cargo would charge 20 grand the airline to get your airplane back. He had a good business. You can't believe that. You can't believe that. It's over. You can't believe that. You can't believe that. It's over for the liberal democracies. You can't believe that. It's over. You can't believe that. Here comes the jungle. You can't believe that. Warning. Dregs and tire dies. the dregs are mine tonight. Dregs and tired guys. The dregs are mine tonight. '48 minuti dopo la mezzanotte, dai, è finita. E non poteva finire che con il tormentone di questo lembo, di questo scampolo di fine anno. Sleep for Mods, un dischetto, un EP di 5 tracce, una più preziosa dell'altra. Vi ricordiamo, domenica 30 dicembre, presidio contro il CPR di Roma. Appuntamento alle 15.30, stazione Fiera di Roma, e il 31 lunedì. Odio il carcere, 31 dicembre, lenticchiata, sound system, autoproduzioni, insomma tutto quello che si fa il 31 dicembre sotto il carcere di Bibbia per salutare le detenute e i detenuti, per augurare che sia l'anno buono per che tutti e tutte riacquistino la libertà. Si riprende domani mattina le trasmissioni in diretta, dopo che vi terrà compagnia la compagna automatica Sonata. Sonata in che senso? Nel senso che è un po' Sonata. Si riprende quindi domattina alle 8, prime pagine di dei quotidiani, rassegna stampa, rassegna stampa cittadina, redazionali della città e da altrove. Alle 13 giornale radio, alle 13.30 spazio comunicazione, alle 14 tutta scena cinema, alle 15 non si sa, alle 16 Attica Blues oltre Black Music, alle 17 La Squilla del Sol ma non si sa, dalle 18 alle 20 il Mezzedes, i redazionali di Radio Onda Rossa del pomeriggio sera, alle 20 spazio comunicazione, alle 23 apostasia, insomma. Tra l'altro domani ospiti a Mezzedes e negli spazi successivi, importante seguire. Il saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, assi domiciliari. Avremo modo di salutarli direttamente sotto il CPR di Roma, sotto il carcere di Bibbia, come poc'anzi detto, augurandoci bella. My mind, with you by my side. A hungry heart. again tonight we'll win. Let it begin tonight we'll win. I'll share our dreams under a communist moon.